Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10-8 minuti, buona domenica. Stefano Gallarini sorride perché sto pensando all'argomento di oggi, non per altro. Qui ho dati, numeri, cose anche molto divertenti e francamente anche inaspettate. Certo che se non toccassi il microfono mentre parlo, magari questa sorta di pernacchia non sarebbe stata messa in onda. Non ero io, era l'astro del microfono che si muoveva. Allora, i numeri, vi do subito quello per i vostri messaggi. Oggi serviranno perché possiamo trasformare la puntata in una sorta di luogo di incontri. Allora, 349-238-6666. E poi il numero verde, perché giochiamo anche oggi alle 11.30 con il mistero in 24 minuti, per voi la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. Questo non lo sa Paolo Corleoni, che è in regia, perché mi sono dimenticato di dirtelo. Tu dovresti avere, guarda, nell'elenco dei file anche uno con indizio 1, un soltanto indizio, in poche parole, ecco, che è il primo indizio, e voglio farvelo ascoltare subito, così almeno avete già un'idea di che cosa poi sentiremo come primo indizio. L'hai trovato? Il riascolto del primo indizio soltanto, scusate, è una cosa in diretta perché me l'ho scordato di dirglielo, per cui non poteva saperlo. Eccolo qua. Eccolo qua, questo è il primo indizio, dovrete cercare di capire di cosa o di chi stiamo parlando. La soluzione può essere o una notizia della settimana oppure un personaggio o qualcosa di particolarmente conosciuto. Comunque sia, per voi fino a 1000 euro, quindi il numero verde per prenotarvi, si gioca alle 11.30, 800 24 00 24. Oggi parliamo d'amore, no? D'amore nel senso proprio quello più semplice, quello più immediato, quello istintivo, il flirt, insomma. Ma perché è cominciata la bella stagione, capito? C'è il sole, voglia di uscire, di conoscere, di confrontarti. Così anche del mordi e fuggi. Perché sempre il rapporto di coppia, che è importantissimo, costruire una vita, una coppia, una famiglia, è straordinariamente importante. E oggi parleremo anche di quello. Però è importante anche relazionarsi agli altri, magari con il semplice gusto di conoscersi, di scambiarsi opinioni, conoscenza e poi anche effusioni, perché no? Insomma, pare che in tutta Europa adesso vada di moda, anche perché ogni tanto le mode escono così, tanto per dire qualcosa, no? Perché poi forse è sempre stato di moda il flirt, e come? Solo che adesso è più facile che venga allo scoperto, è più facile che lo si racconti, e quindi insomma è più semplice anche fare in modo che flirt abbiano consistenza, grazie anche ovviamente alla rete. Di questo parliamo, voglio sapere anche se voi di flirt vivete e se vi piacciono, anche se magari avete una storia seria parallela. E per cominciare, a me è venuta in mente questa vecchia canzone dei Formula 3 scritta da Mogol e Battisti. Non poteva non venire in mente che questa canzone, beh, a me ovviamente, perché vista l'età che ho, un pezzo del 69, però ha un ritornello veramente, un tiro che è fortissimo, se pensate a quanto indietro siamo, cioè nel senso del tempo. E Formula 3 con questo folle sentimento, Mariangela Chiemienti, buona giornata. Buongiorno Stefano, buona domenica a tutti. Allora, noi cominciamo con un sito, si chiama SeaDate, è un sito che troviamo in tutta Europa, c'è anche da poco, da un po', la versione italiana, e che è stato così inventato, tra virgolette, dai tedeschi qualche anno fa, giusto? Esatto, sì. Allora, si tratta di un modo per conoscere persone ma senza impegno. Sì, esatto. Il sito è stato fondato 2 anni fa, è arrivato 2 anni fa in Italia in realtà, è stato fondato 3 anni fa ed è, diciamo, il fenomeno del momento, quantomeno in Italia. perché ci sono sempre più utenti in cerca di avventure. Sì. E quindi insomma non hanno problemi ad ammetterlo e a viverle tranquillamente, sia gli uomini che le donne, per cui insomma... Cioè, la cosa più la cosa interessante, devo dire, dai dati, perché sono state fatte delle ricerche da Trend Research l'anno scorso, hanno intervistato quasi 4.000 persone in 12 paesi: Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Spagna, Svizzera, Austria, Svezia, Finlandia, Danimarca, Paesi Bassi e Norvegia, ecco, per fargli l'elenco insomma di tutti i paesi coinvolti, è che le donne hanno un bel ruolo in tutto questo. Non, così prima si pensava che il flirt, la voglia così magari di una storia extra coniugale, extra coppia, fosse prevalentemente maschile, ma a quanto pare i dati non dicono questo. Beh sì, le donne sono la chiave di successo del sito, perché chiaramente in un sito di incontri, poi tra l'altro mirato alle avventure, se non ci fossero le donne, insomma, il sito non durerebbe molto, ecco, sarebbe un fallimento totale. Invece le donne si iscrivono tranquillamente al sito perché magari su C-Date, che in Italia pronunciamo C-Date, perché sta per casual dating, sono protette, diciamo, dall'anonimato, dalla discrezione del sito. Ecco, questo è un po' come avviene in generale su internet, perché sei costantemente in qualunque sito protetti da tutti i punti di vista, e a volte anche fin troppo. Allora io ti chiedo di restare in linea, Mariangela, perché abbiamo gli aggiornamenti sul traffico, poi continuiamo a parlare con te. Il riposo del guerriero. Intanto arrivano anche i vostri messaggi. C'è Daniele Di Riccione che scrive: in attesa di una donna bella con cui costruire un futuro, mi sono dedicato a flirt con donne meno belle ma che hanno molto più da dare. Ma non capisco perché debbano essere belle per forza, Daniele, cioè nel senso che l'amore alla fine, quando costruisci una coppia, va al di là di tutto questo. Vabbè, comunque poi parleremo anche di questo per capire quali siano i meccanismi, anche perché da Londra proprio questa settimana sono arrivate notizie fresche che dicono che non è vero che gli opposti si attraggono ma poi si mollano, quindi è molto meglio essere singoli. Poi vedremo se sarà vero. Continuiamo a parlare invece con Mariangela Chiementi, allora appunto responsabile del sito C-Date. Allora Mariangela, dicevamo sono tante le donne, ecco, io volevo capire però questo, non è che così dietro anonimato e tutto queste donne poi cerchino un compenso poi per le loro relazioni così veloci? Beh no, sono donne che in realtà sono pronte, diciamo, a vivere le proprie fantasie, le proprie trasgressioni, però nella vita di tutti i giorni hanno un po' il timore di farlo perché insomma magari temono di essere giudicate. Ecco, esatto, e poi molte sono sposate come anche uomini, infatti la percentuale è alta, esatto, delle persone sposate, per esempio, sono, attenzione, il 33%, questo dato è sconvolgente, tra virgolette, lo dico in senso buono, ma è quello che mi faceva ridere un po' prima della puntata, nel senso che gli sposati sono il 33% uomini e il 45% donne, quindi in percentuale sono più le donne sposate che cercano un flirt rispetto agli uomini. Sì, probabilmente vogliono evadere la routine e... magari, non so, temono di esprimere le proprie fantasie anche di fronte al proprio partner, al partner di una vita, perché sarà magari... contento il partner, ovviamente, perché nel senso, scusami, mi viene da sorridere, anche perché credo che il fatto sia anche che a volte le donne hanno un pochino più di tempo, penso a quelle che non lavorano per esempio, e invece gli uomini magari costruirsi la scappatella è un po' più difficile perché hai il lavoro, poi devi tornare a casa e quindi è un po' più complesso, invece magari per qualche donna è più semplice perché ha un po' più di tempo libero, forse, non lo so, ma lo dico solo perché la percentuale è del 12% più alta di quelle cioè le donne rispetto agli uomini sposati, appunto, dico. E poi cos'è che abbiamo di curioso secondo te nei numeri di questa ricerca? Dunque sicuramente diciamo la questione, diciamo, i dati che riguardano le donne sono quelli più interessanti perché fanno emergere un fenomeno del tutto nuovo, che comunque Inaspettato, diciamo, ecco, francamente inaspettato. Però insomma vuol dire che qualcosa si sta muovendo. Io volevo comunque comunicare agli ascoltatori che SeaDelt non è un sito gratuito, nel senso che per forza di cose, per poter leggere e scambiarsi messaggi, bisogna pagare una sorta di abbonamento, dico bene? Sì, è gratuito per le donne, completamente gratuito per le donne. Ah, adesso ho capito perché è la percentuale più alta allora, scusami. Sì. Beh sì, anche quello è il motivo. Ah ecco, quindi e invece è pagamento per gli uomini, un po' come in discoteca, sì. Gli uomini pagano le donne gratis, ecco, va bene. Sì. Vabbè, no scusa, sorrido perché ho capito, quindi questo è un buon motivo per far aumentare la percentuale, insomma, ecco, alla fine. Però sì, tu è dici... un motivo per fare, diciamo, aumentare le percentuali delle donne e allo stesso tempo selezionare gli uomini che si iscrivono al sito. Chiaro, nel senso che... certo, dovendo pagare un abbonamento, anche se è molto basso, comunque sia, dovendolo pagare, ovviamente, tu dici, lo fa solo chi veramente desidera iscriversi. Mariangela, l'ultima puntata, domanda, secondo te, se le donne avessero dovuto pagare, sarebbero state così tante, secondo te, oppure no? Magari ce ne sarebbe stata qualcuna in meno, senz'altro, però comunque sarebbero state lo stesso numerose. Cioè, dici che comunque il fenomeno esiste, insomma, ecco, per cui funziona sì, così. Esatto. Grazie Mariangela, buona domenica. Grazie, ciao, altrettanto. grazie. Io vorrei sentire le donne, visto che ce ne sono tante all'ascolto in questo momento, cosa pensano di questo? Siete disposte a un flirt? Interessante, 349-238-6666. Anna Muolo, buongiorno Anna. Buongiorno a voi e radioascoltatori. Ecco, Anna Muolo è invece cotitolare di un'agenzia matrimoniale, perché abbiamo voluto mettere così, insomma, insieme due realtà, no? La realtà più nuova, quella di internet, che permette l'anonimato, permette di essere quello che non si è, uno può scrivere quello che vuole, poi l'incontro magari ci sarà anche e poi ci si guarda in faccia e dice ma tu non sai niente di quello che avevi descritto. E invece l'agenzia matrimoniale ha tutta un'altra faccia, diciamo così, proprio perché ci si espone in tutto e per tutto. Esiste ancora l'agenzia matrimoniale ed esiste, meno male, in maniera ancora tradizionale, direi. La tradizionalità è legata agli obiettivi che il single che si rivolge a noi desidera raggiungere. Diverso sicuramente l'obiettivo rispetto a chi cerca una relazione attraverso un sito di annunci online. Certo, sono due cose completamente diverse. Ripeto il sito di prima, che è SeaDate, c-date. Okay. Anche perché, guardi, abbiamo una clientela sempre più attenta, la quale si muove ormai senza alcun tipo di imbarazzo in questo settore rispetto a molti anni fa. Certo, un'agenzia oggi deve essere innovativa, dinamica, rispondere in modo efficiente anche alle esigenze che il cliente chiede, propone. Certo. Anna, scusa, ti faccio le domande classiche, però sono anch'io curioso, sì, certo. Perché non sono mai entrato in un'agenzia matrimoniale. È un settore che desta sempre tantissima curiosità. Ma è chiaro, perché, no, ma sai perché? Perché uno nella vita dice, io mai, figurati se, ecco, capito, subito, no. Poi invece ci sono dei fatti della vita quotidiana che ti spingono a dover andare a un'agenzia matrimoniale, il tempo che manca, per esempio, oppure la perdita della compagna o del compagno per qualche ragione, l'impossibilità di fare nuove conoscenze per una ragione o per l'altra. Ma infatti guardi, tanti single, oggi come oggi, quando si rivolgono a noi sono contenti di trovarsi in strutture proprio perché si sfata un po' il pregiudizio, il di, diciamo esatto, così. Ecco. Il pregiudizio, sì. Il fatto di sentirsi un po' ghettizzati, non è assolutamente così e tanti ce lo riconoscono. Guardi, l'avessi saputo prima, avessi pensato prima a una soluzione del genere, avrei evitato comunque incontri sbagliati e sicuramente avrei raggiunto la serenità affettiva molto, molto tempo fa. Anna, due domande pratiche. Quanto costa? E poi quanto costa rivolgersi in un'agenzia matrimoniale? Perché comunque ci avrà un costo questa cosa. E le età? Guardi, uomini e donne dai 26-27 anni in su, ovviamente liberi da vincoli, oggi sono i fruitori di un'agenzia matrimoniale. Il target è medio alto, quindi francamente la domanda quanto costa il vostro servizio non mi viene mai posta, soprattutto al telefono. Quindi al di là di questo, quando una persona è interessata a risolvere una situazione non guarda il costo. Beh, possiamo almeno dare un range. Possiamo dare un range, perché il range può essere sotto i 1000 euro, sopra i 1000 euro. Faccio un esempio, e quindi, perché credo che sia invece un elemento importante capire uno cosa deve affrontare per rivolgersi, perché questo potrebbe essere un ostacolo. Sì, uno, diciamo per esempio, una cosa, il cliente di un'agenzia matrimoniale sa pertinamente che i costi sono ben diversi rispetto al sito di annunci. Certo, online. Sicuramente, certo, chiaro. Siamo sotto ai 4.000 euro senz'altro, ed okay, è una cosa, un costo accessibile a tutti, soprattutto se l'interesse è forte. Non è vero che la gente oggi non ha più valori e non creda più ai sentimenti. Diciamo che è una situazione sociale così difficile che sottrae a tutti serenità ed energie, tutti abbiamo il bisogno di chiudere una giornata qualunque con un bacio o un abbraccio della persona. Certo, ma sicuramente, quindi, sicuramente. Non sta a pensare se deve spendere. No, ma io, Anna, te lo chiedo perché questo è un paletto che tanti si pongono e non si rivolgono all'agenzia di matrimonio proprio per questa ragione, perché non hanno voglia di affrontare una spesa, ok? È anche vero che d'altro canto questo permette di fare un certo tipo di selezione, cioè esatto, chi si rivolge è sicuramente interessato a conoscere un'altra persona, esatto, no? Ecco, esiste l'altro aspetto, che è fondamentale, se no poi ci sarebbe veramente di tutto e quindi forse lo scopo dell'agenzia matrimoniale se ne va un po' da un'altra parte. Ma certo, anche perché guardi, io sentivo prima la collega, sì, una donna che si iscrive gratuitamente in un sito di annunci, ma che cosa potrà mai garantire a un uomo che invece cerca con serietà una relazione di coppia? Cioè, non che non sia seria quella persona, però sicuramente ha meno interesse, secondo me. Beh, infatti, esatto, infatti quello è un sito di incontri per flirt, cioè una cosa proprio completamente diversa. Esatto, io quindi non voglio legare le due cose perché sono... Ma non lo sono, ho proprio introdotto dicendo che erano opposte. È proprio per questo, non lo sono affatto, per quello invece la curiosità era capire quanto oggi ancora l'agenzia matrimoniale nell'epoca di internet ha invece ancora forza, no? Ecco, anche perché offre un servizio appunto completamente diverso. Sì, assolutamente. Ecco, l'agenzia matrimoniale offre un contributo e un supporto, soprattutto perché è basato su una ricerca mirata. Ecco, infatti, proprio, proprio questa sarà la domanda che le farò tra poco, Anna, e sapete di aspettare, perché vogliamo capire proprio cosa fa l'agenzia, cioè tutto l'iter, diciamo così, che deve essere fatto per cercare appunto di aiutare la persona a trovare l'anima gemella. Il riposo del guerriero. Parliamo di coppie oggi, c'è Anna Muolo al telefono, che è la cotitolare di MP, un'agenzia matrimoniale. Allora, Anna, stavamo dicendo che cosa succede quando una persona entra in un'agenzia. Si presenta, ovviamente, voi avrete delle domande da fargli. È molto importante sostenere dei singoli colloqui conoscitivi, attraverso i quali il consulente matrimoniale evince gli aspetti predominanti della personalità di ogni individuo, quindi è fondamentale per operare poi una ricerca mirata. Si profila così un possibile incontro, sì, e se conforme a quanto richiesto dal cliente si avvia la conoscenza, ma questo è solo un primo passaggio, perché anche il feedback degli incontri che si promuovono poi è importante. Io posso conoscere Francesco e raccontare poi ad Anna com'è andata, quello serve a Francesco per migliorare, laddove poi con questa persona non andasse bene, l'atteggiamento nei confronti del prossimo incontro. Ecco, quindi c'è anche una sorta di aiuto. Cioè, è un interagire costante e continuo, la consulenza è proprio questa, l'affiancamento è questo. Certo. Anna, c'è anche il fatto, non so, quando io mi presento, per esempio, mi vengono fatte le domande, c'è anche la vostra ricerca di capire cosa nascondono le mie risposte? Cioè, nel senso che... Ok. Sì. Quindi anche al di là di quello che io dica. Diciamo che non abbiamo necessità di porre domande, perché nel momento in cui il cliente si rivolge a noi è già nella condizione di raccontare. Certo. Perché lì le domande servono a poco, a meno che non siano proprio domande specifiche su quelli che possono essere gli interessi, per esempio. Ma il pregresso di una persona è fondamentale vincerlo ed acquisirlo, proprio perché serve a capire dove lo puoi portare. Quando un incontro, un'agenzia matrimoniale non funziona, perché di base l'analisi fatta in sede di colloquio non è all'altezza della situazione. Perché quanta gente arriva con pretese superiori a quello che può dare? Quindi voi a quel punto ridimensionate la richiesta? Nel momento in cui una persona chiede più di quello che può che dire, certo. È, voglio dire, per una buona riuscita, certo. C'è mai stato qualcuno che non avete accettato? Sì, raramente, no, però è capitato. È magari successo. Persone di 50 anni che pretendevano di conoscere, certo, sempre per una relazione seria, per carità, però pretendevano di conoscere una ventenne. Certo, ecco, per cui quello è già un paletto. Non chiaro. Ci sono altri sistemi, ma siete stati molto chiari. Questa è la differenza, fondamentalmente, certo, no? Ecco, perché per capire quanta differenza c'è, quindi poi uno trarrà le sue i suoi ragionamenti e si rivolgerà a chi di dovere. Ti ringrazio molto, Anna, per la chiacchierata. Una buona domenica a tutti. Grazie. MP Consulenza, agenzia matrimoniale. Appunto, avete sentito che anche le persone giovani, 26 anni, abbiamo visto l'età minima, nel senso, cioè indicativamente, per rivolgersi a un'agenzia matrimoniale, perché c'è chi non ha tempo e avrebbe voglia di conoscere persone giuste ed evitare invece incontri sbagliati. Elisa Tumbiolo, ciao, buona giornata. Buona giornata, buongiorno a tutti. Allora, Elisa è l'autrice di un libro che mi ha colpito, il titolo è questo, Il rospo che c'è in lui, perché questo dice che siamo tutti dei rospi, no Elisa? Che... No, non è proprio così. Non è così, però. Il problema è che crediamo di aver sposato un principe, no? E invece. E poi piano piano tutti i difetti vengono a galla. Ecco Elisa, quello che mi ha... così convinto in questo libro è che, diversamente da tutti gli altri, di solito i libri scritti da una donna sono: gli uomini puzzano, sono tutti brutti e cattivi, e noi donne siamo poverine, e cosa possiamo fare per loro, no? Questo è un po' il senso di moltissimi libri, così anche divertenti, non dico di no. Invece il tuo parte da un altro presupposto, quello che l'uomo incontrato è sicuramente il principe, ci vuole solo un po' di volontà per farlo emergere. Sì, è proprio così. L'importante, diciamo, è aver utilizzato i mezzi giusti nella fase di conoscenza, no? Aver visto che ci sono le cose basi che ci interessano e che servono. Poi bisogna mettere in conto che inevitabilmente, diciamo, nel corso della relazione, anche poi, diciamo, se sfocia nel matrimonio e dopo, i difetti vengono a galla, perché nessuno è perfetto. E bisogna sapere in quei momenti come comportarsi, cosa fare, ma soprattutto avere molta consapevolezza che i difetti ci sono da parte di entrambi. Certo, c'è anche la rana, voglio dire, non soltanto il rospo. Esatto. Allora, se una conosce quali sono i meccanismi che fanno scattare le crisi, che fanno scoppiare le liti, che portano alla rottura, uno li previene e sa anche come affrontarli quando arrivano. Io dico che ci sono dei tarli che aggrediscono la relazione di una coppia fin dai suoi inizi, che poi rosicchiano i matrimoni e li fanno scoppiare. Se uno li individua, li conosce, sa quali sono, automaticamente, diciamo, li previene. Ecco, no. Tu hai scritto questo libro più, dici, io non sono una psicologa, ma sono un'amica. Sì, io non sono una psicologa, non sono una psicoterapeuta di coppia, ho semplicemente alle spalle 16 anni di matrimonio, però ho conosciuto tante coppie, mi sono trovata a consigliare, a sostenere, a incoraggiare diverse coppie che da che si amavano alla follia a che a un certo punto li vedi che si girano le spalle e si pugnalano alle spalle. Allora una si chiede perché. E appunto per cercare di aiutare, di capire, no? di andare alla radice delle cause per poi trovare delle soluzioni. E io ho notato che in tutte queste coppie, seppure le problematiche sembravano diverse, diverse le motivazioni, eccetera, alla fine c'erano delle comuni radici. E le comuni radici erano queste: da una parte diciamo, ne possiamo individuare due fondamentali. Una è l'immaturità personale affettiva di molte persone all'interno della coppia. E questo cosa porta? Porta che all'inizio di una relazione non si approfondisce bene la conoscenza dell'altro, quindi diciamo, non si fondano quelli che sono i canali importanti, cioè cosa pensa quest'uomo della famiglia, del lavoro, ha i miei stessi ideali, ha i miei stessi principi, vediamo se ci sono le basi per poter costruire insieme. Beh, l'accecamento dell'inizio, no? Esatto, esatto, quindi diciamo che la propria interiorità è un po' annebbiata dagli effluvi dell'innamoramento, no? E non si vede, non si, cioè ci si giustifica, si giustificano dei comportamenti sbagliati o non li si vedono affatto. Un errore in questa fase, secondo me, e in questo punto so di essere molto impopolare, però è quello di identificare erroneamente il sesso con l'amore. Allora, quando si fa questo si privilegia una forma di conoscenza, che è quella fisica corporea, che è talmente totalizzante, talmente una calamita, che atrofizza tutte le altre forme di conoscenza. Ecco, quindi, scusa, proprio apro una parentesi allora. Scusa, abbiamo aperto e continueremo poi a parlare di flirt oggi, non soltanto di coppie, no? Come stiamo facendo in questo momento, però anche di flirt occasionali. Secondo te, quindi, i flirt servono a rafforzare una coppia che magari appunto sta insieme da tanto tempo? Cioè il flirt all'esterno della coppia? Sì, certo. Assolutamente no. No, secondo te lo rovina? Perché sì, perché si va a cercare la felicità laddove nessuno te la può dare, nessuno ti può dare la felicità se non il coniuge. Allora come spieghi? Hai tutto un impegno. Allora come spieghi, così una curiosità, è che nei siti, abbiamo preso ad esempio il sito internet che ha più iscritti in questo momento in Europa, sia così alta la percentuale di donne sposate, più donne sposate rispetto agli uomini sposati, cioè il 45% di donne sposate rispetto al 33% cerca un flirt. Sì, è chiaro che c'è un'insoddisfazione all'interno della coppia e si cerca, diciamo, la soddisfazione altrove, però io credo che qui c'è una falsa interpretazione della libertà. Io sono libera di fare quello che mi va, sì. E per cui seguo i miei istinti, seguo la mia soddisfazione, ed è quello che porta all'amore usa e getta anche all'interno della coppia, cioè siamo insieme finché la barca va, finché tutto va bene, dopodiché ognuno va per la sua strada. Ecco, proprio a questo punto entra in gioco una parola chiave che tu usi spessissimo nel tuo libro, che è la volontà. Sì, la volontà è fondamentale nell'amore. L'amore è fatto di sentimento, ma è retto dalla volontà. Va dove ti porta la testa, lì trascinaci a forza anche il cuore, nel senso che il cuore è fondamentale, ci fa fiutare la persona giusta, cioè ci fa sentire quelle piacevoli sensazioni, però dobbiamo essere consapevoli, e questo sì mi posso permettere di dire che lo dicono gli esperti, sì, che la curva dell'innamoramento dura circa un anno e mezzo, sì, scende, certo. Più o meno il massimo, dopodiché inizia, diciamo, a declinare. Allora, se non si ha la consapevolezza che succede questo, cioè se non si sa che prima o poi si ha il declino e quindi viene meno questa benzina dell'innamoramento, delle forti emozioni, della passione, eccetera, e in quel momento bisogna azionare un altro tipo di motore, cioè bisogna rimboccarsi le maniche e agire con la volontà per rafforzare il sentimento, per spingerlo avanti, allora è chiaro che si manda all'aria un rapporto, che le coppie scoppiano, che si cercano alternative. Ecco, tu comunque parti dal presupposto che la persona incontrata molto spesso è quella giusta e che poi non la sappiamo mantenere, ecco, e quindi poi magari ci pentiamo anche di averla lasciata. L'ultima domanda per te, Elisa, quanto ci hai messo a trasformare il tuo rospo? Ancora sono in fase di lavorazione. Va bene. Ma io penso, diciamo, che è una sfida che dura tutta la vita. Ecco, il gioco è quello, dici. Va bene. Grazie, Elisa Tumbiolo. Grazie, il rospo che c'è in lui, San Paolo Edizioni. Buona domenica. Ciao, grazie, Elisa. Ciao, ciao. Angelo, buona giornata. Ciao. Ciao, ciao, buongiorno, bentrovato. Grazie anche a te. Allora, Angelo, noi l'abbiamo così coinvolto perché è esistito, esiste tuttora, un modo di conoscere che è il modo veloce, quello che è lo speed dating, cioè questi incontri proprio velocissimi, mordi e fuggi. Tu in 448 vedi una persona, se ti piace bene, se non ti piace, ciao, no? Io di questo non ho molta esperienza, nel senso che io ho partecipato a una vacanza organizzata con questo sistema, questa tipologia. Esatto. Esiste anche la versione speed date, che è quella degli incontri che si fanno nei locali. Esatto. E invece tu... noi abbiamo partecipato a una settimana bianca nel nostro caso, e all'interno di questa settimana bianca insomma ci sono stati degli incontri. Ecco, ma come funziona? Cioè, tu sei andato da solo o con degli amici? Curiosità. No, io sono partito da solo. Bravo, mai con gli amici. Avevo già fatto tante altre vacanze da solo, ma proprio da solo in giro per il mondo. Mentre in quell'occasione, ecco, avevo voglia di andare a sciare, il mio gruppo di amici non era per la quale, e cercando in internet ho trovato questo gruppo che si stava formando, lì per lì non avevo mica tanto capito di cosa si trattasse. Poi l'hai capito, e sì. E poi insomma ho visto di che si tratta, la cosa mi ha incuriosito e mi sono aggregato a questo gruppetto all'ultimo momento. Ho trovato tutti coetanei con motivazioni simili alle tue, alle mie, sì, la voglia di stare insieme, divertirsi intorno in questo caso. Quindi a uno sport, eravate una serie di ragazzi che hanno incontrato una serie di ragazze. Sì, penso fossimo calcolato a metà e metà, una trentina, un albergo riservato quasi per intero per noi, e io sono partito credendo di trovare tutti sfigatelli o così gente che... E invece non è stato così. E invece sono rimasto molto sorpreso, gente di una levatura culturale sicuramente elevata, gente affermata nel lavoro, nelle professioni, gente con la quale mi sono ritrovato veramente. E poi all'interno di questo gruppo è scattata la scintilla. Ah no, aspetta, no, non togli, cioè, dovremmo arrivare alla fine lì, no? Adesso gli ascoltatori hanno già capito, aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. È incredibile come ogni volta che poi si coinvolge Antonio Capitani, da una parte che è un astrologo, tra l'altro anche praticamente conosciuto da chi legge la Gazzetta dello Sport, da una parte hai i fans, le fans dicono: ah, meno male c'è Antonio, invitalo più spesso, eccetera, dall'altra invece messaggi che dicono: ah, ma come si abbassa la qualità, perché guai, parlare di queste cose è impossibile, eppure fanno parte anche della vita quotidiana. L'amore sicuramente fa parte della vita quotidiana. Siamo partiti dal fatto che in Europa hanno sempre più successo i siti per gli incontri occasionali, quindi pare che le persone abbiano meno voglia di impegnarsi, ed è curioso come siano molte le donne sposate che cerchino dei flirt, questo in tutta Europa, quindi non è un dato italiano, è un dato europeo, come abbiamo visto prima, e d'altro canto come comunque ci sia anche la voglia di stabilità e quindi di creare un rapporto duraturo. E, è successo qualche giorno fa, è stata pubblicata una ricerca di Glenn Wilson, uno psicologo inglese, che tramite un suo lavoro chiamato quoziente di compatibilità, cioè lui attraverso le domande cerca di capire se può esistere un quoziente di compatibilità, un po' come il quoziente di intelligenza, e dallo studio è emerso che più si è simili e più la coppia funziona. Gli opposti, insomma, è vero, forse si attraggono all'inizio, ma poi la coppia non dura. Io ho Camillo Loriedo al telefono, che ringrazio. Camillo, buongiorno. Buongiorno. Era una conferenza questa mattina, la ringrazio, che insieme a Maria Di Giusto e Giulia De Bernardis ha scritto Attrazione e scelta, incontrarsi e formare una coppia. E allora, io vorrei partire proprio da qui, Loriedo, ovvero... E secondo gli studi che avete fatto e quello che avete anche riportato nel libro, è vero che più si è simili e più la coppia ha modo di continuare, di essere forte nel tempo? Guardi, diciamo, questi studi sono estremamente variegati e portano spesso a risultati anche abbastanza contraddittori. Alcune cose però ci sono tutto sommato abbastanza chiare dal momento in cui si tirano le somme, appunto, anche della totalità di queste esperienze fatte un po' dappertutto. Ecco, nella sostanza quello che possiamo dire con un certo grado di onestà, perché appunto alcune ricerche sono guidate un po' anche da un principio di interesse per esempio quello di vendere uno schema di compatibilità delle coppie che si stanno formando per facilitare, diciamo, come dire, la loro vita, la loro possibilità di vivere insieme felici, ma non sempre poi danno quello che effettivamente veniva richiesto. Diciamo, quello che abbiamo potuto notare in sostanza è che servono entrambe le cose. Serve una parte di somiglianza e serve una parte di differenza, ecco, all'interno della coppia. Allora, possiamo quantomeno, non so, provare a dividere dove le somiglianze e dove le differenze? Ma dal punto di vista di struttura caratteriale è importante che ci sia la possibilità di compensarsi reciprocamente. Per farle un esempio banale, no? C'è chi è straordinariamente disorganizzato e chi invece è particolarmente puntiglioso, meticoloso. Sì. Ecco, l'abbinamento fra queste due strutture non solo è probabile ma anche necessario, perché in realtà, insomma, se uno dei due non paga le bollette, insomma, l'altro compensa. Ecco, quindi diciamo si possono creare delle situazioni di grave disagio. Questa necessità è colta dalle persone e evidentemente la scelta si fa su questo tipo di... È difficile che due persone che sono completamente disorganizzate si uniscano fra di loro, perché questa disorganizzazione impedirebbe loro di avere una reale vita di coppia. Allora, possiamo dire che sarebbe meglio essere complementari da un punto di vista pratico, quindi sulle cose quotidiane, sulle faccende, diciamo così, sì, e invece simili, per esempio, sui gusti o sugli obiettivi? Guardi, anche questo è discutibile, nel senso che, per esempio, sul piano emozionale, che conta ovviamente parecchio, no? Cioè, lei immagini che sarebbe una coppia con due freddi o con due super caldi, cioè la conseguenza sarebbe appunto in quelli super caldi che non c'è un minimo di distanza e quindi l'incapacità di comprendere, diciamo, a livello razionale quello che potrebbe servire ai due anche dal punto di vista puramente emotivo, e dall'altra parte appunto avremo due freddi che non si incontrano mai. Diciamo che quindi non possiamo pensare a una coppia che sia assolutamente identica, anche perché in realtà sia dal punto di vista genetico sia dal punto di vista semplicemente del completamento reciproco, cioè non avverrebbe un qualche cosa che aggiunge novità e di conseguenza come sposarsi con se stessi, se alla fine si sceglie una persona identica a se stessi. Ecco, quindi insomma francamente un po' diversi quello, bisogna sempre essere. Bisogna esserlo. In realtà quello su cui, il piano su cui invece si è visto che è molto importante che ci siano delle somiglianze, sì, più che altro è il linguaggio. Le dico linguaggio intendendolo in senso molto ampio, ecco, non necessariamente la lingua che la persona parla rispetto all'altra. Certo. Il linguaggio significa riuscire ad avere un mezzo espressivo che l'altro è in grado di capire, perché dispone di mezzi più o meno analoghi. Quindi, diciamo, questo è un punto importante di comunanza nella coppia, perché senza di questo alla fine non si raggiungono, non si incontrano. Quindi questa è una premessa importante. Ecco, tra l'altro, quindi, piano lì l'uguaglianza c'è. Ecco, gli aggettivi più ricercati, leggevo nel vostro libro, nell'altro, è la gentilezza, sono la gentilezza, la comprensione e l'intelligenza. Spesso sì, più di quello che è, non so, la buona posizione sociale, piuttosto che le capacità artistiche, quindi le capacità di immaginare. Sì, beh, questo, diciamo, molto spesso ha a che fare col fatto che una coppia di solito si unisce con la finalità anche di avere figli e di conseguenza la previsione, diciamo, di un futuro in cui almeno uno dei due sia in grado di provvedere alle necessità dei figli, quindi sia intelligente abbastanza e abbia buone capacità, diciamo che la possibilità di avere a disposizione risorse economiche ingenti, però se queste risorse non vengono adeguatamente gestite finiscono rapidamente comunque, quindi diciamo la protezione più sicura sembra risiedere in caratteristiche relazionali, la gentilezza, e in caratteristiche intellettive, quindi le capacità, certo, cognitive, che sono protettive abbastanza per il futuro della persona, del bambino che dovesse nascere. Ecco, non so se è una risposta, lo rido, però la domanda gliela faccio. Il fatto che così ci sia questo grande successo europeo dei flirt, cioè delle relazioni non impegnative, è un fatto dei nostri tempi, c'è sempre stato, sta cambiando, è falso nel senso che è semplicemente una notizia così da mettere sui giornali, ma che poi non ha nessun fondamento reale, secondo lei? Ma diciamo, la specie umana è presumibilmente una specie monogama, in realtà diciamo ci sono numerose eccezioni da questo punto di vista, ecco, ci sono animali che noi sappiamo si mantengono fedeli per tutta la vita. Sì. e non cambiano. La specie umana si è data queste regole alle quali poi ama trasgredire con una certa facilità. Diciamo, quindi probabilmente cose di questo genere sono sempre successe e continueranno ad avvenire. Forse oggi con la facilità della comunicazione, ecco, internet è semplicemente un po' più semplice che accada. Naturalmente oggi il numero di persone raggiungibili è ampiamente cresciuto rispetto al passato e continua a crescere. Quindi diciamo le occasioni sono molto più numerose, le possibilità sono più frequenti, quindi questo capita e evidentemente, anzi, ci sarà un periodo di adattamento a questa realtà, perché così facendo appunto il discorso appunto della monogamia o dovrà essere radicalmente messo in discussione, oppure ci sarà un adattamento col passare del tempo, perché appunto la scoperta di avere a disposizione una gamma pressoché infinita di conoscenze, di rapporti, fa sì appunto che all'interno della coppia non ci siano più quei rapporti esclusivi che c'erano un tempo. Certo, diciamo l'occasione fa l'uomo ladro anche in questo senso, no? Ovviamente ce ne sono, possono essercene di più. Comunque sia, la voglia di incontrarsi e formare una coppia, come il titolo del vostro libro, resta ed è ancora un punto fermo. È sicuramente un punto fermo, ma anche perché sembra essere, diciamo, l'argomento favorente degli esseri umani rispetto a molte altre specie, nel senso che la coppia e la costruzione della famiglia garantisce un livello di protezione e quindi di sopravvivenza superiore, e dal momento che questo è garantito, o almeno in certi casi, che poi vediamo dai fatti di cronaca che ci sono sempre eccezioni a questa regola, questo c'è per, vale per tutto. Questo vale per tutto e conseguentemente diciamo questo effetto protettivo ha fatto sì che la specie umana, proprio perché ha delle famiglie, si sviluppasse a livelli diciamo non raggiungibili dalla maggior parte degli animali, però anche naturalmente poi i legami familiari significa anche che il livello emozionale raggiunto a volte è di tale tensione da provocare anche reazioni emotive che possono essere assolutamente pericolose. Grazie Camillo Riedo. Attrazione e scelta, incontrarsi e formare una coppia, scritto insieme a Maria Di Giusto e Giulia De Bernardis. Buona domenica, grazie Camillo. Grazie a lei. Il riposo del guerriero. Mentre scopro che il 61% degli uomini single teme il ritorno in spiaggia, perché insomma la fisicità è ancora un punto fermo, soprattutto quando si è in spiaggia, ritorna Antonio Capitani con gli altri sei segni. Antonio, eccoci. Mi spieghi perché ogni volta che c'è ospite un astrologo e mi arrivano dei messaggi tremendi, perché sono sempre considerate baggianate, per cui insomma non ci si riesce neanche a divertire un po' nella vita, no? Sì, un po' perché la gente si prende troppo sul serio. È un po' perché forse la gente, anzi sicuramente la gente non conosce l'astrologia e quindi parla di cose che non conosce commettendo degli autogol spesso rovinosi. Ecco, però al di là di questo, è vero, della conoscenza sicuramente, comunque si può anche giocare un po' nella come vita, no? Prendersi certo in giro, no? Cioè, parte seria è la parte che poi uno può considerare più o meno seria. Anche se dietro tutto quello che si racconta quando si parla di questa disciplina, c'è molto, in realtà, molto di più di quello che appare. Comunque, vabbè, ovviamente dovrebbe essere una puntata a sé questa, magari la faremo. Come no? Allora, siamo arrivati alla bilancia, come possiamo conquistarla? Ma guarda, la bilancia, essendo l'opposto dell'ariete che partiva così tanto facilmente in quarta, la bilancia ha bisogno forse di essere lavorata un tantino di più ai fianchi. La bilancia è un po' snob, la bilancia è selettiva, la bilancia è la sophisticated lady dello zodiaco, quindi bisogna non essere mai dozzinali, bisogna invece essere un po' glam, un po' soprattutto rispettosi non solo della sua sensibilità, ma dare dimostrazione di essere rispettosi della sensibilità di chiunque, perché questo è un segno che ha rispetto della sensibilità della gente. E quindi credo che con un po' di raffinatezza, un po' di bon ton, si possa conquistare, insomma, non dico facilmente, ma comunque si possono avere delle buone chance di avviare anche un rapporto, non soltanto un flirt, ma anche un rapporto più duraturo. Volevo solo aprire, se mi permetti, una brevissima parentesi, ma la chiudo subito, quella percentuale così alta che si diceva prima di donne che trasgrediscono rispetto agli uomini. Una considerazione di tipo astrologico: fra pochi giorni Giove entra nel Toro, che è un segno femminile. Giove è il segno dell'abbondanza, si mette in buon rapporto con Plutone dal Capricorno, che è un segno anch'esso femminile. Plutone è il pianeta della trasgressione. Ho l'impressione che le statistiche dell'anno prossimo dimostreranno che questo 44%, non dico che sarà raddoppiato, ma quasi, insomma. Allora diamoci da fare, va bene. Come farsi mollare da una bilancia? Insomma, con un atteggiamento lontano dal buon gusto, dalle buone maniere. Basta essere squilibrati, ecco, per dirla così, prendendo in prestito ovviamente il segno. Bisogna essere raffinati per portarla a casa e, insomma, un po' rozzotti per indurla a mollarci, ecco. Scorpione. Lo scorpione, io spezzo sempre una lancia a favore di questo segno, che viene definito un segno che pensa sempre soltanto al sesso e alle trasgressioni erotiche. È vero, comunque lo scorpione non è capace di, non ha l'indole dell'innamorato platonico, ha bisogno comunque anche della componente passionale e carnale, però non è tutto lì. Lo scorpione ha una interiorità, un'anima sempre molto sensibile, le emozioni rivestono un ruolo preponderante nella vita dello scorpione. Certo, se allo scorpione si propongono, come dire, situazioni intriganti, anche un tantino clandestine, un flirt da vivere un po' nel nascondimento, lontano da tutto ciò che può essere anche la regola, la norma, insomma, lo scorpione abbocca bene, uomo o donna che sia. Il rischio è che poi lo scorpione ci finisca dentro con tutte le scarpe da tennis, e quindi quello che poteva essere all'inizio un semplice flirt, una trasgressione di una settimana magari al mare, può diventare in realtà una cosa più impegnativa che lo coinvolge molto. Come mollarlo? È dura. Ormai bisogna accendere tante candele a Santa Ildefonsa per è lo scorpione che deve decidere, insomma, non sarete mai voi a farlo. È così. Sagittario. Il Sagittario si divide un po' in due categorie. C'è quello super borghese, super perbenino, che mai, una volta che ha soprattutto famiglia, si lascerebbe indurre in tentazione da avventure extraconiugali, e invece quello che rappresenta un po' di più la parte equina del segno, che corre la cavallina. Forse questa seconda tipologia di Sagittario è più facilmente abbordabile. Non ci vuol molto, perché comunque il Sagittario cavalloso, diciamolo così, è già di per sé incline a concedersi libertà e come potrei dire, proprio delle indulgenze, ecco. Quindi non c'è molto da fare, basta, non so, parlargli dell'ultimo viaggio fatto o della tradizione gastronomica vietnamita. Tutto ciò che è lontano, tutto ciò che lo porta a contatto con mondi che sono distanti dal suo, lo affascina e lo induce, ripeto, a cadere in tentazione. Non c'è neanche da faticare molto poi per farsi mollare, perché il Sagittario fedifrago, quantomeno quello disimpegnato, quello che ama il flirt così, non è tipo da come dire, sentirsi col cuore infranto, disperato se un flirt finisce. No, tutto sommato dice va bene, è finita, ci sta, era nel preventivo delle cose, e quindi va bene così. Non è tipo che fa drammi solitamente. Capricorno. Più facilmente abbordabile. Il Capricorno non ci si lascia ingannare dalla sua aria così asburgica e così severa. Il Capricorno è uno al quale la trasgressione erotica piace, e piace anche parecchio. La sa condurre con stile, è lui che conduce il gioco solitamente, quindi non c'è neanche da consigliare troppo in merito, nel senso che tanto arriva il Capricorno ed è lui che corteggia, conquista, ha spirito di iniziativa da vendere, e alla stessa maniera poi conduce il gioco nel momento in cui il gioco stesso non gli sta più bene. Quindi non c'è molto da, da fare, ecco, bisogna solo lasciarsi andare, se, insomma, se si è d'accordo, alle manovre, devo dire anche molto efficaci, molto pragmatiche, molto concrete del Capricorno. Cioè bisogna andare al sodo. È uno che non si perde in molte parole. Acquario. L'acquario, beh, insomma, l'acquario è lui che conquista con quella mirabile faccia di bronzo che caratterizza 9 acquario su 10, lo si può accalappiare facendo dei discorsi molto chiari fin dall'inizio, soprattutto per quanto riguarda un flirt. Flirt è e flirt rimarrà, senza catene, senza legami, senza impegni, senza vincoli. Se voi cominciate a mettere le catene, perdete. Addio, addio, l'acquario non lo portate più a casa. I pesci? I pesci bisogna sempre fargli credere che sarà l'inizio di una grande storia d'amore, non significa ingannarli, beh, questo no, però c'è bisogno dell'atmosfera un po' da favola, l'atmosfera così che promette poi magie Cenerentola e da Bella Addormentata nel Bosco. Per farsi abbandonare, questo è importante, non trattate male il pesci, perché più si tratta male il pesci, più si stimola il suo lato un po' sado, un po' maso anzi, sì. Ed è lì che scodinzola e che non va via più da esattamente da il casa. Contrario di quello che si possa pensare. Guarda Antonio, adesso io e te dobbiamo andare sulla tazza perché ci hanno mandato proprio lì con un messaggio, sì, ma noi non abbiamo mai parlato di scienza. Tu hai parlato di scienza per caso? Hai detto questa parola prima? No, neanch'io, per cui non capisco perché, ma sai, gli ascoltatori poi interpretano come vogliono. Grazie. Ciao. Ciao Antonio, grazie. Ciao, grazie a voi. Ciao, ciao, buona domenica. E allora finiamo ovviamente cercando poi di augurare di trovare veramente l'amore per chi non ce l'ha e invece il flirt per chi lo vuole, a tutti gli ascoltatori, questo sicuramente. E adesso scopriamo anche come fare un'altra cosa. Zanini, produzione Porte Hotel Tagliafuoco. Sogni d'oro, Zanini Porte. Vi presenta Il Gastronauta. Davide, ciao, buongiorno, Davide Paolini, il nostro gastronauta. Ciao, buongiorno, ho ascoltato molto volentieri tutta questa trasmissione. Ma come? Ma guai, ma tu non sai cosa hanno scritto? Quando c'è un astrologo, tu non sai che messaggi arrivano, è sempre così, ogni volta. Perché secondo te, Davide? Ma perché sai, c'è molta discussione sull'astrologia e quindi ci sono prese di posizione di personaggi che contano, e tu sai benissimo, sono 2 o 3, la HAC, c'è appunto Piero Angela, insomma, che hanno sempre detto che erano tutte sciocchezze, quindi molta gente li segue, poi altra molta gente pensa, molto, molto più scientifica, probabilmente crede che non si può prevedere il destino delle persone. Però sai, io credo che, come si dice, diceva Cesare Pavese nell'ultima lettera che scrisse alla sorella, di dare 5.000 lire al prete del suo paese perché dicesse una messa in suo suffragio, almeno lui ci crede, scrisse. Ecco, quindi secondo me questa è la filosofia che bisogna adottare in questi casi. Davide, per conquistare una donna, secondo te, la cena ideale quale potrebbe essere? Beh, allora qui andiamo anche sui segni zodiacali, nel senso che non c'è una cena ideale. No, ho detto, nel senso che ci sono tante, tante tipologie, cioè ci sono tanti gusti diversi. Certo, la tua. Ma la mia non è tanto per farmi conquistare, so più o meno, ma per conquistare, sai, è molto difficile avere una ricetta. C'è Romero Rompini, che questo medico che nel 1927 scrisse questo bellissimo libro, La cucina d'amore, che si basava sui capelli delle donne. E in base a quelli faceva i menù e preparava anche tutta una serie di cose, a cominciare dai fiori, a cominciare dai profumi, a cominciare addirittura dal canapè nella stessa stanza dove si mangiava, a seconda dei capelli di colore delle donne. Io credo che bisogna azzardare su questo, ma l'importante è non tanto cosa tu gli propini, ma come glielo propini, cioè com'è la cena, dove la porti a cena, qual è il momento. Appunto, non, il cibo influisce. Tutti sostengono che ci sono dei cibi afrodisiaci, oppure altri sostengono che non è vero. Io sono convinto che non esistono cibi afrodisiaci. Esiste il momento, esiste in quel momento quel piatto particolare. Se tu chiedi, io ho fatto un esperimento una volta tanti anni fa con 28 donne a una cena creata ad hoc per chiedere qual era il loro piatto con cui, o la loro cena con cui erano state conquistate. Ebbene, ti dico che non ce n'è stata una che avesse raccontato le ostriche o lo champagne. Sono venute fuori le cose più incredibili. E quindi, come ti dico, L'importante è capire il momento, capire anche la persona che hai di fronte. Io credo che, ho sentito in questa trasmissione parlare molto di compatibilità. Sì. Credo che sia fondamentale, perché tu non puoi andare a cena e stare con una donna che magari non mangia assolutamente tutta una serie di cose che a te piacciono. Non lo so, il vino, la carne, o il pesce, o le verdure. Una donna che mangia tutti i giorni insalata e acqua minerale o acqua del rubinetto, come fai ad andare per 10 mesi, un anno, una vita? No, sarebbe impossibile. Sarebbe impossibile. Allora, questo è il fatto profondo. Io so che per farmi conquistare basta un piatto di spaghetto lungo, cotto al dente, condimento di pomodoro fresco, basilico, un pizzico di peperoncino. Per me questa è una delle cose più straordinarie, che allora, diventa anche un piatto di conquista. Allora, visto che ti sei messo così pronto, così a sederti su una sedia e davanti a una tavola imbandita con tanto di spaghetto col peperoncino, che vino a questo punto vorresti trovarti sulla tavola? Ma guarda, io non escluderei uno champagne di fronte a questo piatto, perché secondo me i cibi poveri vanno sempre combinati con i vini ricchi e viceversa, come anche una cosa che mi affascina è la mortadella con lo champagne, per esempio, oppure diciamo un grande piatto, non so, un foie gras. Sì. ci potrei bere anche un vino molto più povero, non ci berrei sicuramente lo champagne, ci potrei bere un Riesling, per esempio, oppure un Gewürz, e quindi vini che non costano l'ira di Dio. Quindi ecco, io sono convinto di queste combinazioni, però per tornare alla coppia, certo che la prima volta che esci con una donna è un po' dura azzeccare, capire il personaggio, però io credo che il cibo possa far capire chi hai di fronte, perché se tu sbagli e magari la inviti a cena e gli offri, che ne so, ostriche, foie gras, e poi non so altre cose, vedi che non è rimasta molto contenta, hai capito che i suoi gusti sono tutt'altro. Io sono più per la spaghettata comunque, perché il cibo più semplice, che è anche meno impegnativo da diversi punti di vista, credo che sia più accattivante. È molto interessante il fatto di abbinarlo con un vino importante, perché forse questa è un'altra mossa che potrebbe essere utile. Grazie Davide. No, ti voglio dire un'ultima sì, cosa. Come no. Col foie gras è difficile sbagliare. Ah, va bene, ok. Allora questo segnatevelo. E poi non so se poi è una tua proposta, Davide. Vuoi essere invitato da qualcuna con tanto di foie gras e champagne? No, il discorso è contrario. Io penso che sia un modo per conquistare una donna. Cioè che le donne siano molto sensibili al foie gras. Ma non tanto perché viene considerato un cibo caro. Proprio perché secondo me è il gusto del foie gras che piace molto alle donne. Va bene, adesso magari se qualcuna volesse rispondere con un messaggio, vedremo la nostra percentuale di ascoltatrici che sono affascinate e sedotte dal foie gras. Grazie Davide e buon viaggio, ciao. Grazie, buona domenica. Ciao, tra pochissimo invece per voi il mistero in 24 minuti, la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere sul sito libreriarizzoli.it, il numero verde 800 24 00 24. Il riposo del guerriero. Oh, mi sa che c'ha ragione Paolini col foie gras. Adesso ne compro un po'. Allora, siamo pronti con il mistero in 24 minuti. Un mistero in 24 minuti. Per voi la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. Libri cartacei ma anche elettronici, sono sempre di più i libri elettronici in giro per l'Italia. 800 24 00 24. La risposta può essere o una notizia della settimana o un personaggio, qualcosa di famoso. Il primo indizio l'avete già ascoltato durante la settimana, l'ho proposto anche questa mattina, ma adesso ve lo faccio riascoltare. Qui il primo indizio è Carmen Consoli di Bianco e Nero. Claudio, buona giornata. Buona giornata. Eccoci qua. Allora, Claudio, abbiamo 1000 euro qua sul piatto. Cosa vogliamo fare? Penso di chiedere un altro indizio, perché proprio sono più nero che bianco, ecco. Cerchiamo di illuminarti allora con 500 euro, perché il premio si dimezza, ma lei è Chaka Khan. Una delle voci più straordinarie del soul, ma anche della disco, Chaka Khan. Questo è il secondo indizio ed è It's My Party, uno dei brani più famosi che abbia mai cantato. Allora, Claudio, questo è il mio party, significa in italiano, ecco, dicendolo. Sì, sì. Questo è il mio party, direi Terrence Malick, per dire qualcosa. Come dire, dico qualcosa per buttare una risposta, tu dici, sì, ecco. Poi la butto lì, Terrence Malick, che ha vinto. Grazie prego. Certo, grazie Claudio, grazie. Bianco e nero, anche se insomma era colori, ma comunque può ricordare in qualche modo il cinema. Elena, buongiorno. Ciao Elena, buongiorno, ti sento bassissima. Alzo la voce. Eccoci allora. Qua, perfetto, ci siamo. Elena, e allora cosa vuoi fare? Dare una risposta oppure ascoltare un altro indizio? Siamo a 500 euro. Sono incerta fra due risposte, però preferirei darla. Al limite lascio la responsabilità di scegliere un altro indizio a chi verrà dopo di me. Va bene, allora il traffico lo ascoltiamo dopo e dai la tua risposta, Elena. Penso Strauss-Kahn, il caso Strauss-Kahn. Grazie Elena, buona giornata. Ciao, gli aggiornamenti sul traffico 800 24 00 24. Un mistero in 24 minuti. Mi sa che questa cosa del foie gras è un'arma a doppio taglio, perché stanno arrivando molte donne che dicono: io proprio non riesco a mangiarlo. Teresa, buona giornata. Buona giornata a lei. Un bel pesce a te piacerà, sei di Genova, no? Sì, ecco, di Genova. Meglio conquistarti con quello. Tu come conquisteresti un uomo con la cucina? Cosa gli prepareresti? Una cosa molto semplice, senza stare a fare tanti sponsor. Direi comunque, se lo vuoi conquistare, lo conquisti comunque. come diceva, e io non sono affatto critica sull'astrologo, come diceva l'astrologo che ho sentito, sono sì, un acquario. Antonio Capitani. Sono un acquario, quindi ha perfettamente azzeccato quello che ha detto. Allora, Teresa, quindi, vediamo. Il fatto stesso che uno stia a pensare a cosa preparare significa già finito l'incantesimo. Ecco, e forse hai ragione anche tu. Allora, Teresa, allora speriamo che anche tu riesca ad azzeccare, come ha fatto Antonio Capitani prima. Vuoi dare una risposta o vuoi ascoltare un altro indizio? Allora, un altro, prova a dare la risposta, perché già la seconda mi ha portato un po' fuori, quindi siccome ero convinta, quasi convinta della prima, dunque l'evento, aspetta, sono fuori, l'inaugurazione della statua del Santo Padre. Così discussa, eh? Io dico quella. Grazie Teresa, buona giornata. Buona ciao giornata. Grazie Alfonso da Caserta. Salve Stefano. Ciao Alfonso, buongiorno. Eccoci buongiorno. Qui allora, io non l'ho ancora detto per gli ascoltatori che magari non hanno mai seguito il gioco, la risposta giusta potrebbe essere anche arrivata, ma la si scopre soltanto alla fine. Siamo a 500 euro in questo momento, due indizi soltanto ascoltati. Tu cosa vuoi fare, Alfonso? Io do la risposta. Dai la risposta anche tu, ci fermiamo ancora a 500 euro. Qual è la risposta? Allora, visto il primo indizio, io avevo pensato il compleanno di Dylan, Bob Dylan. Ah, perché poi il party, tu dici. Party, insomma, il titolo. Eh beh, certo, diciamo che ci sta tutto. Poi sono un grande fan. La risposta ci sta tutta, però chissà qual è quella giusta, se è questa. Sarebbero 500 euro per te. Ciao Alfonso, grazie. Grazie Stefano. Maurizio da Catania. Ciao Stefano. Ciao Maurizio. Allora, cosa vogliamo fare? Sono un attimo interdetto perché avrei dato la risposta che è stata appena data. Il compleanno e anche la foto in bianco e nero, insomma, ne abbiamo visto in questi giorni di Bob Dylan, mi avevano fatto pensare a lui. Ma a questo punto mi gioco anche il fatto che ci sia un'altra cantante statunitense, però nera, perché ho appena saputo che è stata la settimana del compleanno di Bob Dylan, è stata anche la settimana in cui è morto un cantante che veniva associato, diciamo, al, cioè il cosiddetto padrino del rap. Sì. E quindi metto insieme le due notizie, non so se è possibile, cioè il bianco e il nero, quindi insomma di Dylan e della morte di questo musicista. Beh, insomma, però avremmo dovuto sceglierne una, quindi tu dici non è più questa ma è l'altra. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Allora, Maurizio, nel senso la risposta l'accetto, non so, insomma, avrei capito che forse non è proprio quella giusta. No, ma non ci credo neanch'io, però ho partecipato. Grazie, come Maurizio, a me fa piacere, spero anche a te. Buona giornata, buona domenica. Ciao. Ciao, grazie. Antonio, della provincia di Savona. Pronto? Allora, Antonio. Sì, buongiorno. Qua abbiamo sempre 500 euro. Cosa vogliamo fare? Sì, do la risposta. Anche tu? Allora ascoltiamo la risposta. Allora, il 26 di maggio doveva essere il compleanno di Mike Bongiorno. Sì. E si è spento a Milano con Fiorello. Certo. Penso sia... Per raccogliere fondi, fra l'altro, lo diciamo, esatto, è stato fatto fondi, lo spettacolo. Assolutamente sì. Grazie Antonio. Buona giornata. Buongiorno. Abbiamo un altro Antonio della provincia di Brescia stavolta. Pronto? Ciao Antonio, eccoci. Ciao. Qui. Allora, abbiamo ancora 500 euro. Qua gli indizi non li volete ascoltare? Peggio per voi. Sì, no, ma hanno già dato la risposta che avevo in mente, che era Dylan. Ascolterei un altro indizio. Ecco, facciamo così, va. Eccolo qua il terzo indizio. Per precisare la situazione. Antonio, beh, ancora dell'Antoniano, fra l'altro, era, e questo era 44 gatti, credo una delle canzoni dell'Antoniano più famose di sempre, forse per questa filastrocca numerica. Allora, Antonio, 44 gatti. No, mi ha completamente portato fuori di rotta. Avrebbe dovuto aiutarti, non portarti fuori rotta. No. Niente. Buio grazie. Totale, grazie a te Antonio, ciao, grazie, mannaggia, neanche una risposta dato. Intanto qui le risposte sul foie gras è odiatissimo da molte donne. Devo riparlare con Davide Paolini perché non so se è la scelta giusta. Roberto dalla provincia di Milano, buona domenica. Ciao, buona domenica. Ciao Roberto, abbiamo 300 euro in questo momento e creando un indizio anche sostanzioso, l'ultimo che abbiamo fatto ascoltare. Cosa sì, vuoi che fare? Che porta completamente fuori strada. Ma come? No, porta dentro la strada. Se solo sapessi la risposta. Mi è venuto in mente Bob Dylan, ma no, vabbè, non è Bob Dylan. Anni, con 44 gatti non c'entra poco. Però Bob Dylan e 44 gatti, come li leghi? Non lo so, io, infatti Bob Dylan non c'entra proprio nulla, è proprio sbagliata quella risposta lì. Allora prendiamo, cioè, 44 gatti, Cristina D'Avena, è l'unica che mi viene in mente. Che fa un party. Grazie Roberto. Ciao. Mi dispiace però, è già il secondo che non dà risposte. Lidia da Roma, ha detto Cristina D'Avena, ma era buongiorno, tanto. Buongiorno, sono Lidia. Ciao Lidia, sì, cosa vogliamo fare Lidia? Abbiamo un minuto e qualcosa. Ma io ci provo. Brava, però. Lidia. Senta, dovrebbe essere, penso, tra i regali che Obama ha fatto alla regina d'Inghilterra nell'ultima visita, c'è la foto della regina madre. Che appunto era una foto in bianco e nero. Grazie, non Lidia, so. Perché parte il primo è questo 44 gatti che non c'entra niente. 44, no, infatti. Eppure pensa che è proprio un dato che se non inserisse su internet quel numero. Grazie Lidia, ciao, buona grazie giornata. Grazie a lei, arrivederci. Ciao Letizia da Modena, ecco sì. Buongiorno Stefano, io ero per l'allegria di Fiorello per ricordare Mike Bongiorno, però adesso che c'è questo nuovo indizio provo a dire che potrebbero essere... Puoi ascoltare anche un altro indizio se vuoi, eh? Non so, una data che richiama la messa in scena di, del musical Cats sulla base della, del libro per bambini scritto da Thomas Elliot. Certo. Letizia, grazie, ma anche questa non è la risposta giusta. Grazie. Mario. Sì. Mario, tu sei l'ultimo. Sì, buongiorno. Mario, buona dammi... domenica. Buona anche a te. Mi dai la risposta giusta? Sì, per... subito. Oh, penso sia il calo della percentuale dei matrimoni. Perché ridi? Perché non è quello. Oggi abbiamo parlato d'amore, tra l'altro, di flirt, eccetera. E Mario, non è quello giusto. La risposta è sbagliata. Cosa ti devo dire? Mi dispiace. Mi dispiace anche a me. Non riesco a consegnare niente. Te la dico la risposta. Grande polemica perché in Germania un ex carcere nazista è stato trasformato in un albergo e i clienti pagano 44 euro per sentirsi prigionieri e fare dei party. Ecco, questa è la risposta, il bianco e nero, perché in chi decide di entrare in questo carcere trasformato in albergo si mette proprio la divisa in bianco e nero. Grandissima polemica in Germania per questa iniziativa. It's my party, l'avete capito, è 44 perché è proprio il costo del posto dell'albergo. Grande polemica, immagino, e penso anche che sia giusta. Allora, grazie a Giorgio De Luca, redazione, a Margherita Frarelli in assistenza, Paolo Correoni in regia, grazie a voi ovviamente, anche per la vostra pazienza. Ci sentiamo settimana prossima, credo parleremo di talenti e che cos'è davvero il talento. Credo, magari poi cambieremo, ma questa dovrebbe essere la linea. Adesso il GR e poi uno speciale sul Giro d'Italia. La prossima domenica da Stefano Gallarini. Ciao.